Entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare al fresco delle stelle anche più in là. Sogni, tu sogni. Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, vorrei seguire ogni battito del mio cuore, capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà. Thank you.